Questo, vediamo questa. La parola caso. I latini l'avevano divinizzato come dea fortuna. Per noi la fortuna è intesa soprattutto positivamente, anche se si parla spesso anche di cattiva fortuna. Il caso invece è quasi sempre pensato come neutrale. Che cosa intendiamo con la parola caso? Sostanzialmente qualcosa di inconoscibile, un evento che solo a posteriori possiamo dire che si è prodotto o non si è prodotto. Il caso ha quindi a che fare con il tempo. Un evento accaduto per caso è come se gli fosse stato sottratto il tempo, trasformandolo da possibilità in evento. Il caso ha anche a che fare con la probabilità. Un altro legame lo troviamo con il nostro sapere. Che per caso ieri ha piovuto? Non lo sappiamo, allora ci buttiamo sul caso, anche se questo non può più influire su un fatto accaduto o non accaduto. È anche strano pensarci bene che un fatto non accaduto può essere qualsiasi fatto, mentre un fatto accaduto non può che essere quello. Ne è responsabile l'asimmetria del tempo, quella che i fisici misurano col difficile concetto di entropia. Fate una ricerca su internet. Poniamoci altre due domande. Il caso dipende dal fatto che, non conoscendo lo stato di un sistema complesso in un istante t, non possiamo nemmeno conoscere quale sarà il suo stato nell'istante t più 1. Per esempio, se fra un secondo dalla nuvola sopra di noi cadrà una goccia sul mio naso. Il caso è sempre inconoscibile. Per esempio, una pallina posata su una strada in discesa rotolerà verso il basso, a meno che non incontri un avvallamento che la fermi. Io però sono quasi sicuro che il caso non si verificherà. Vi è ora più chiaro che cosa intendiamo per caso? A me no.